Gesù è il buon pastore. Amen. Giovanni 10, leggiamo questi versi. Gesù è il buon pastore e dice queste cose. Quando ha messo fuori tutte le sue pecore, Gesù sta parlando di sé e dice, quando ha messo fuori tutte le sue pecore, va davanti a loro, sottolineate queste parole, va davanti a loro. Questo è il ruolo del pastore, andare avanti, segnare la strada. Abbiamo cantato questo bellissimo brano che noi seguiamo le sue orme perché lui va avanti, lui segna la strada e noi lo seguiamo. E quindi Gesù dice, il buon pastore va davanti a loro e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce, ma un estraneo non lo seguiranno, anzi fuggiranno via da lui perché non conoscono la voce degli estranei. E qua sta descrivendo qualcosa che era molto, molto risaputo al popolo di Israele e alle persone alle quali si stava rivolgendo, perché molti di loro erano allevatori e sapevano molto bene che le pecore conoscono la voce del pastore. E accadeva anche che le pecore a volte venivano di diversi greggi, venivano messi nello stesso ovile, ma non era un problema, perché ciascun pastore veniva, aveva il suo richiamo e le proprie pecore uscivano dall'ovile e seguivano il pastore. Quindi Gesù sta dicendo, la Chiesa è il mio gregge, io sono il buon pastore e la Chiesa segue me perché riconosce la mia voce. E noi siamo qui perché impariamo di volta in volta, anche nel nostro incontrarci, ad ascoltare la voce di Gesù. E a volte è molto importante imparare ad ascoltare la voce di Gesù non confondendola con altre voci, perché altre voci si possono presentare in una maniera furbesca, in una maniera astuta, il diavolo è astuto e furbo, e che possono assomigliare alla voce del buon pastore, ma non è la voce del buon pastore. Allora il discernimento, uno dei doni forse più sottovalutati dei 9 doni dello Spirito Santo, è ciò di cui abbiamo bisogno. Abbi discernimento, e per avere una buona guida da parte del pastore bisogna prima di tutto riconoscersi pecore. Vi piace? Dobbiamo riconoscerci pecore, che non è una bella cosa, perché non è l'animale più intelligente sulla faccia della terra, non è il più abile, non è il più astuto, non è la balena, il delfino. Si dice che è uno degli animali più intelligenti sulla faccia della terra. Non abbiamo orientamento in noi stessi, siamo delle pecore, e non perché Gesù vuole denigrarci, ma perché vuole che noi comprendiamo il ruolo che lui ha. E allora, se vuoi una buona guida da parte di Gesù, che è il buon pastore, prima di tutto devi riconoscerti pecora. Perché se non ti riconosci pecora, non darai il ruolo che Gesù deve avere nella tua vita e non sarai guidato. Il secondo è riconoscersi parte di un gregge. Ne abbiamo parlato così tanto. Ruth dà questa bellissima testimonianza e dice a Naomi, il tuo Dio sarà il mio Dio, il tuo popolo sarà il mio popolo. E Dio guida il gregge. Il gregge, lascialo quel verso, il gregge non sta dicendo io vado fuori, rimetti il verso per piacere, non dice vado fuori e metto fuori la Mirko, non c'è il mio nome lì. E non si parla di una pecora al singolare, si parla di pecore al plurale, si parla di un gregge, perché Gesù ama guidare la sua chiesa e ci ha istituiti come chiesa, come gregge di appartenenza, perché ama guidare il gregge. Quanti riconoscono di aver ascoltato la guida di Dio attraverso la chiesa? Tutti. Una parola da parte di un fratello, e tu ti chiedi, no, ma perché il Signore ha affidato a quel fratello una parola da dirmi quando io sono stato 3 ore nella stanzetta a pregare, digiunare, ad ascoltare la sua voce in aspettativa che lui mi dicesse qualcosa? Perché Dio onora sempre quella che è la strategia che lui ha stabilito. E quindi lui onorerà la strategia della Chiesa, del gregge, perché è lui che l'ha stabilito. Ora, se tu sei un cristiano perseguitato, chiuso in un carcere remoto di una nazione dove non hai la possibilità di interfacciarti a fratelli, beh, è logico che nella infinita grazia di Dio, Dio scenderà nella tua cella e ti parlerà tu per tu con una visione che ti porterà conforto e sostegno. E queste sono le testimonianze che ascoltiamo. Ma non facciamo l'errore di pensare, se accade a quel credente in quella prigione, allora può accadere nella mia stanzetta senza il bisogno che io viva la Chiesa. Perché Dio ti ha dato una Chiesa, ti ha dato la libertà di appartenervi, ti ha dato la possibilità di interagire e inserirti e far parte del gregge che Lui ha stabilito, e Lui vorrà guidarti attraverso il gregge. Non essere una pecora isolata, perché delle pecore isolate Gesù parla di pecore smarrite, vulnerabili all'attacco del nemico, e quindi Dio vuole guidarti, ma tu devi riconoscerlo come pastore e devi riconoscerti in un gregge. E non sarà sempre comodo, non sarà sempre la cosa migliore, ma sarà sempre un modo che Dio utilizzerà, perché Lui onora le strategie che Lui ha stabilito. Lui va avanti, ve l'ho fatto sottolineare così visibilmente, ve l'ho enfatizzato col tono della mia voce. Lui va avanti, perché vedete, non è l'unico passo biblico dove Dio si presenta come colui che va avanti. Ci sono tutta una serie di versi, non li andremo a leggere tutti, ma in Esodo inevitabilmente leggiamo che Dio va avanti al suo popolo. In Isaia c'è scritto che Lui va avanti, in 2 Samuele, nei Salmi, così tanto spesso c'è scritto che Dio va avanti. E poi c'è questo meraviglioso verso, questo ve lo voglio leggere, che si trova in Deuteronomio 31, verso 8, e c'è scritto proprio testuali parole: il Signore cammina, che già è un grande dire, vero? Il Signore cammina. Lui non ha bisogno di camminare. Lui è ovunque nello stesso momento. Lui è qui, a Modugno, in questa sala, e nello stesso istante Lui è all'altro capo del mondo. Cosa sarà? Nuova Zelanda? Lui è ovunque nello stesso momento, ha orecchie e occhi per tutti e ha la capacità di guidare tutti. Non ha bisogno di segnare un cammino, ma questo è come Gesù, Dio ama manifestarsi attraverso la sua parola, per scendere ai nostri termini e farci capire come funziona la sua guida, cioè che Lui si abbassa al nostro livello. Noi camminiamo, noi ora siamo qui e per arrivare lì dobbiamo fare un tragitto. E Lui dice: io cammino davanti a te. Lui è già qui ed è già lì, però Lui cammina davanti a noi. Egli sarà con te, dice il verso, non ti lascerà e non ti abbandonerà. Attenti a questi versi, attenti a queste parole, perché queste parole sono ripetute nella Bibbia decine e decine di volte. Quando la Bibbia è ripetitiva è perché vuole contrastare una bugia ripetitiva del diavolo. E la bugia ripetitiva del diavolo è che tu sei abbandonato, la bugia ripetitiva del diavolo è che Dio non è con te, la bugia ripetitiva del diavolo è che Dio abbandona te, che magari dà attenzione a qualcun altro, ma a te, proprio a te, ha abbandonato. È una bugia, è una bugia del diavolo. Lui non ti lascia, Lui non ti abbandona, Lui è con te, Lui è al tuo favore. Magari tu puoi abbandonarlo, magari tu lo puoi lasciare, ma Lui non decide mai di farlo, anzi Lui sta facendo, ti sta corteggiando, dovunque ti trovi. Magari qui è venuto qualcuno per la prima volta, e io ti dico che il tuo venire qui in questa sala questa mattina non è pertanto una scelta che tu hai fatto, ma Dio ti ha voluto in questo luogo per sentire queste parole specifiche. Tu sei amato al punto tale che Dio ti sta corteggiando, Lui ti sta cercando, Lui è innamorato di te, Lui bussa alla tua porta perché vuole entrare nella tua vita, e lo vuole fare per il tuo bene. Lui ti ama, Lui non ti abbandona, Lui non ti lascia, ma Lui cammina davanti a te. Dio cammina davanti a te, significa che Lui sa già la strada, che Lui è già orientato, che Lui non ha bisogno di capire dove si trova. Lui sa dove tu ti trovi e si mette davanti a te quale guida. Lui è il buon pastore. È un buon pastore che fa guida, cura, nutre le pecore e le protegge. Questo è quello che ogni buon pastore fa. E Gesù è il migliore dei pastori. Gesù, Dio, nostro Dio, è la guida migliore per le nostre vite. E allora permettigli a Lui di stare avanti, non metterlo al tuo fianco, non metterlo alle tue spalle, mettilo avanti. La scorso weekend ero a Napoli con la mia famiglia, è stata un'avventura. Una delle avventure di Napoli è quella di guidare nelle strade di Napoli. Quanti hanno mai guidato nelle strade di Napoli? Vedo che molti di voi avete guidato, sapete che cosa significa, sapete che cosa sto elaborando ancora. Sabato sera, dopo l'incontro di chiesa, il pastore ci dice: andiamo in una pizzeria, seguimi. Lui va avanti con la sua macchina e dopo poche centinaia di metri, io lo perdo. Perché a Napoli le macchine ti compaiono avanti per opera dello Spirito Santo. È un miracolo. Tu non sapevi che fossero lì e appaiono dall'alto, per non parlare dei motorini. I motorini ovunque te li ritrovi e quindi tu perdi l'orientamento perché non hai più modo di vedere dov'è la macchina che devi seguire. E allora a un certo punto io seguivo delle macchine, ma non ero più sicuro che fosse la macchina del pastore. Erano tante le altre macchine che erano state più furbe di me, più abili nella loro guida da rally che a Napoli c'è, e si erano messe tra me, tra la mia auto e la macchina del pastore. Che cosa ho fatto? La cosa più sensata e saggia che si possa fare a Napoli. Ascoltate questo insegnamento, magari non vi rimarrà niente del resto, che è un grande rammarico, però magari se andate a Napoli non vi avventurate in strade che non conoscete. Seguite questo consiglio, è proprio dal cuore. E quindi io ho fatto la cosa più saggia e più sana che potessi fare. Mi sono accostato e ho messo le quattro frecce. Ho chiamato il pastore. Ho detto: pastore, io non ti vedo più. Non so dove sei e non so come arrivare a questa pizzeria. E lui mi ha dato qualche indicazione e si è fermato anche lui, mi ha raggiunto, e solo nel momento in cui poi mi ha raggiunto e io l'ho visto, sono rimasto incollato a lui da quel momento in poi, a rischio di tamponamento ad ogni incrocio. Ero proprio incollato a lui, e mentre io lo seguivo con la tensione tra acceleratore e frizione per stargli incollato e seguire ogni viuzza che lui intraprendeva, mi è venuto in mente effettivamente quello che Gesù desidera da parte nostra. Lui vuole che noi siamo incollati a lui, per seguirlo, che noi ci incolliamo alla sua voce, che ci incolliamo alla sua parola, che ci incolliamo a quello che lui ha stabilito per le nostre vite e alla strada che lui segna davanti a noi, in modo tale che non ci siano altre persone che si frappongono, che si intromettono e che deviano il nostro percorso. Però l'illustrazione calza anche a pennello per coloro che oggi possono dire: io non vedo più Gesù. E se non vedi più Gesù, quello che devi fare è accostarti, mettere le quattro frecce e chiamarlo. E non fare neanche più un metro senza la certezza che lui sia davanti a te. Quando ho capito, tutto coopera al bene, vedi? Smarrirsi anche per Napoli può far nascere un intero messaggio, un incoraggiamento per la Chiesa. Però io sono stato incoraggiato, perché questo è quello che desidero per la mia vita e questo è quello che desidero per la tua vita. Che tu non sia smarrito, che noi possiamo andare verso la direzione di Gesù e la prima cosa che dobbiamo fare è vederlo. Chi è il buon pastore, e conoscere la sua voce. Dove troviamo la sua voce? Domenica scorsa c'è stato detto: attraverso la sua parola. Anche Gesù stesso, figlio di Dio, Dio incarnato, ha dimostrato, ha dato esempio a ciascuno di noi come seguire la voce di Dio, attenendosi alla parola di Dio. Se hai difficoltà a leggere la Bibbia, è un problema, è un grande problema. Non è un problema piccolo, e non lo voglio sminuire, non voglio dirti questa mattina: non fa niente, siamo tutti un po' distratti e presi da tanto. Non fa niente, va bene anche il versetto del calendario, una parola per oggi. Ce ne abbiamo ancora? No, ok, allora non devo fare neanche la pubblicità, posso screditare completamente questo calendario, tanto non abbiamo più copie da dover vendere. Il calendario può essere un bel incoraggiamento, ma Dio desidera dare indicazione alla nostra vita attraverso un'altra strategia che lui ha stabilito. E la strategia che lui ha stabilito è la Chiesa, la strategia che lui ha stabilito è la sua parola. E se noi vogliamo rinunciare alle sue strategie, allora non dobbiamo sorprenderci che possiamo perderci e disorientarci. Però la buona notizia per noi oggi è: possiamo mettere le quattro frecce, possiamo fermarci e possiamo chiamarlo. E dire: Gesù, io non so come arrivare dove tu hai stabilito che io arrivi. E non voglio avventurarmi con la mia, col mio intendimento, per fare riferimento a Proverbi 3. Non voglio andare nelle vie tortuose che tutti seguono per poi sbattere contro un muro e riconoscerti quale pastore. No, non voglio sbattere contro muri. Voglio camminare seguendo te. E se tu non sei davanti a me, allora tanto vale che io stia fermo. Allora tanto vale che io stia fermo. Vogliamo fermarci questa mattina? Voglio invitare il gruppo Lode. Vuoi fermarti questa mattina? Forse è proprio necessità di fermarti e mettere le quattro frecce. Vuoi fermarti e resettare? Che bello, Gesù ci dà la possibilità unica che nessuna terapia, nessun uomo, nessuna strategia terrena ci può dare. Lui ha il tasto reset per le nostre vite. Lui ha il tasto reset e a volte, sapete quanto è necessario il tasto reset? Mia madre qualche giorno fa era impanicata perché il cellulare non funzionava, non rispondeva ai comandi. Quanti hanno una mamma, una suocera, una nonna, a cui basta dire spegni e riaccendi. Spegni il cellulare, dagli un po' di tregua, fallo rielaborare tutto, fa che altre istruzioni, oltre per Napoli anche per i cellulari, oggi sto dando indicazioni sotto ogni punto di vista, fai rielaborare, il sistema operativo deve resettarsi e ripartire con una fresca ripartenza. E poi, e questa indicazione mi sa che l'ha dato Luciana, cioè mamma ha fatto tante centinaia di metri per trovare soccorso per il suo cellulare, sapeva che io non c'ero a casa, è venuto in chiesa, sapeva che se avete bisogno di aiuto per il vostro cellulare, Luciana è qui in ufficio per questo. E Luciana ha detto: Sofia, spegni il cellulare, riaccendilo. Ha spento il cellulare, l'ha riacceso e tutto ha funzionato. E tutto ha funzionato. Gesù ci dà questa straordinaria possibilità di resettare, di spegnere, di mettere le quattro frecce. Lui proprio è per quello. Lui, se tu lo fai, lui gioisce. Lui non è preoccupato del fatto che tu ti possa fermare dal tuo cammino, se il tuo fermarti è per cercarlo. No, lui dice: wow, questo è ciò che gradisco da parte del mio figlio, della mia figlia. Che lui e lei mi desidera talmente tanto a non fare passi azzardati guidati dal proprio orientamento, ma si ferma per cercarlo. Fermare e resettare significa fare anche quello che lui ha fatto nei nostri confronti. Lui ha perdonato, e il perdono è il reset migliore che tu possa avere per le tue relazioni. Vuoi ripartire e dare nuova speranza alle tue relazioni, ma non solo, al tuo stato d'animo, alla tua salute emotiva? Perdona. Hai qualcuno da perdonare? Fallo, è un reset meraviglioso. Spingi quel tasto e dici: Signore, non so come farlo, ma io seguo le tue istruzioni, io voglio perdonare Tizio, voglio perdonare Caio, voglio perdonare lei, voglio perdonare tutte le persone che mi hanno causato un dolore. E quel momento, quel tasto reset ti riporta a vivere libertà, tranquillità, pace. Basta vivere nel peso dei torti che hai subito e dell'amarezza che ti trascini addosso e che ti porta a lamentare di tutto e di tutto. Perdona, perdona. Se hai qualcuno di che dolerti, dice la parola di Dio, qualcuno che ti porta dolore, tu perdona, perdona. È un reset meraviglioso. Smorza le emozioni, smorza le emozioni. Questo è un tasto reset molto importante. C'è un pastore, Rick Warren, che ha scritto queste parole molto bellissime, molto belle, dice, o molto bellissime. Poi mi mandate la mail, ok? L'arma preferita da Satana per condizionare la tua vita sono le emozioni negative. La rabbia, il rancore, la delusione, mi ha deluso, l'amarezza, l'angoscia. Queste emozioni, nel momento in cui prevalgono in te, prendono il controllo della tua vita, ti trovi smarrito nelle viuzze di Napoli e peggio. Fermati, metti le quattro frecce, elabora quali sono le emozioni che hai, dille a Dio: Signore, io sono arrabbiato, io ho tanta rabbia, io ho una rabbia così forte che non riesco a respirare bene, io ho una rabbia che non ho più lucidità nei miei pensieri. Vuoi tu smorzare questa emozione e darmi autocontrollo? Lui lo farà. Noi abbiamo nostra figlia, 2 anni e mezzo, che sta riconoscendo le sue emozioni. Ogni tanto viene a noi e dice: sono arrabbiata! Sono arrabbiata! E noi l'accogliamo. Mia moglie è molto paziente nel dire: ora devi respirare, respira. Sei arrabbiata, perché sei arrabbiata? E Dio fa così con noi. Stamattina ti sta dicendo questo: respira. Sei arrabbiata, sei deluso, vieni da me. Dimmi perché. E la preghiera è questo: è poter esprimere quello che stiamo vivendo, per rielaborarlo secondo il suo desiderio, il suo volere. E così smorzi le emozioni, non sei guidato da esse. Togli l'arma del nemico per eccellenza nella tua vita per farti smarrire e ritrovi orientamento in colui che con la pace, con la calma, mette a tacere il bollore interiore. Metti le quattro frecce, fermati. Fermati per considerare qual è il peccato contro il quale devi lottare, dichiarare guerra. Smetterla di camminare in compromesso e fallo. Questo è un altro modo per resettare tutto. Non sai dove andare? Beh, un combattimento lo devi fare. È combattimento contro il nemico, contro i desideri della carne. Allora combatti, di Signore, c'è questa cosa che è ingombrante nella mia vita, questo peccato che si ripresenta, io lo confesso davanti a te. La confessione è un reset, è un mettere le quattro frecce e ripartire, dire: Signore, so che tu perdoni tutto da me, dei miei peccati, dei miei fallimenti, delle mie cadute, ma ti chiedo di rialzarmi e farmi camminare nella grazia tua e nella libertà e nella santità. Vogliamo alzarci in piedi. Lascia che sia Gesù a guidarti. E guidando, permettendo a Gesù di guidarti, forse non sempre saprai dove stai andando e dove ti trovi, perché questa è la guida di Gesù. Ma non importa, ciò che conta più di tutto è che Gesù è davanti a te. Non devi conoscere tutte le strade, non devi conoscere tutti gli angoli, non devi sapere dove svoltare, come arrivare alla meta. Tutto ciò di cui hai bisogno è solo la certezza che chi sta davanti a te effettivamente è Gesù e che tu sei incollato a Lui per seguirlo. E questo è il miglior orientamento da avere. Non trovare orientamento guardandoti a destra o a sinistra. Trova orientamento guardando avanti a colui che vuole segnare la strada davanti a te. Dobbiamo chiudere i nostri occhi. Vogliamo alzare le nostre mani. E vogliamo dirti, Gesù, che se siamo qui riuniti questa mattina è perché ci riconosciamo pecore, parte di un gregge, e che riconosciamo te quale sommo e buon pastore. Tu sei la guida. Tu sei la nostra guida. Voglio pregarti per chi adesso si ferma, per chi stamattina decide di non continuare una corsa frenetica in direzioni guidate dal proprio istinto, chi questa mattina dice io mi fermo perché voglio vedere Gesù davanti a me. Vogliamo fare la tua volontà, vogliamo vivere nella tua volontà, vogliamo che la tua volontà sia fatta nelle nostre vite.